GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Frane nella notte, bomba d'acqua provoca smottamenti lungo la regionale 251 a Barcis, strada liberata in poche ore. Azienda friulana apre un nuovo stabilimento in montagna, ma a preoccupare gli imprenditori è la viabilità. Ultra dell'Udinese denunciato per il petardo che in via Sarpi ha ferito una giovane, per lui DASPO fuori contesto. Studenti e trasporti pubblici, abbonamenti scontati anche quest'anno in regione e i numeri delle tessere aumentano. Energie rinnovabili, un panorama in continua evoluzione al centro della 10ª edizione della scuola all'Università di Udine. Dal Gervasutto alle Paralimpiadi di Parigi, l'udinese Emiliana Bizzarini alla guida dello staff medico degli atleti azzurri. L'intervista. 12:31, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Apriamo questa edizione meridiana del giornale radio con una notizia di cronaca. Un incendio è scoppiato poco fa ad Oberdò del Lago, in un bosco proprio a ridosso del lago. Le fiamme si stanno allargando. Sul posto sono state inviate 3 squadre, la Boschiva, una da Monfalcone e una da Gorizia. E continuiamo con la cronaca. La strada regionale 251 della Valcellina è stata bloccata nella notte da alcune frane provocate da una eccezionale bomba d'acqua intorno alle 2:30 all'altezza di Barcis. 144 mm di pioggia in 2 ore nella notte a Barcis. Un forte temporale ha causato smottamenti lungo la SR 251 e richiesto la chiusura temporanea della strada regionale per circa 1 chilometro tra la fine dell'abitato e il Varma, poi riaperta già questa mattina alle 6 a senso unico alternato grazie al pronto intervento di FVG Strade e Vigili del Fuoco di Maniago. I numerosi torrenti a monte e carichi di acqua hanno trasportato un gran quantitativo di materiale che si è riversato sulla viabilità principale. A questo si è aggiunta l'annosa criticità della ghiaia nel Cellina. Gli scarichi sono quasi completamente otturati, in alcuni punti la ghiaia supera di anche 1 metro il livello di uscita dei tubi. I danni si sono concentrati questa volta in particolare in una struttura ricettiva. Il gestore Daniele Siccardi. L'acqua arriva dal versante della montagna, ma io non prendo solo la mia acqua, prendo anche l'acqua di alcuni ruscelli che non sono manutentati. Perciò, oltre a tutta l'acqua mia, va bene, raccolgo anche l'acqua che esce da altri ruscelli che non sono manutentati. Il sindaco di Barcis, Claudio Traina. Mi sentirò con la regione, con la protezione civile. Io credo che ormai sia quanto mai opportuno, appunto, anche per il fatto di questo cambiamento climatico, pensare a uno studio geologico tutto a monte dell'abitato, perché alla fine l'abitato noi l'abbiamo attraversato da rughe. Barcis, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Insediarsi in montagna con un nuovo stabilimento, ma a preoccupare la scelta imprenditoriale della friulana Eurols, sono i problemi di viabilità. Sentiamo. 2 anni fa l'imprenditore Renato Rails, fondatore della Eurols, multinazionale friulana nel settore delle attrezzature per la laminazione a freddo, appena aperta la sua prima fabbrica in Varesia, era rimasto bloccato in valle dopo l'incendio doloso che per 10 giorni ha tenuto in scacco i residenti. 2 anni dopo raddoppia. A fine anno aprirà un altro stabilimento di coltelli da taglio per lamiera, sempre in Varesia. Da una 20ina di dipendenti si passerà a 50, non solo resiani, alcuni di loro arrivano anche dai comuni vicini. Con questo nuovo investimento, da oltre 3 milioni, la viabilità diventa per noi un tema ancora più critico, l'appello di Riles. Un appello che arriva in un momento non casuale. A 2 anni da quel rogo, che mandò in fumo 138 ettari di bosco, sulla provinciale 42, principale via d'accesso alla Valeresia, si circola ancora a senso unico alternato, con un semaforo che regola la circolazione. E il 16 settembre partirà il cantiere dell'EDR per la definitiva messa in sicurezza della strada. Il versante del monte Staulitz è ancora fragile, con alberi secchi a rischio caduta. Completare gli ultimi 2 lotti di lavori per 3 milioni e mezzo di euro complessivi richiederà l'abbattimento di diversi alberi e per 2-3 settimane si ipotizza di chiudere la strada in alcune fasce orarie. In contemporanea anche la strada regionale che porta a Uccea sarà interessata da un cantiere di FVG Strade, 10 giorni di lavoro per mitigare il rischio idrogeologico su una strada già in passato soggetta a chiusure. Cantiere da terminare prima che arrivi l'inverno, per i tempi stretti del PNRR. Il sindaco di Resi, Anna Micelli, il 4 settembre incontrerà gli assessori regionali, Riccardi e Amirante, per valutare la riapertura, durante questi lavori, del bypass sul greto del torrente Resia, come già in occasione degli incendi 2 anni fa, per avere un'opzione sempre percorribile e limitare i disagi dovuti alle fasce orarie. Ma per pensare a un futuro di normalità non solo per chi investe, ma anche per i 7 nuovi nati che si attendono in valle, per esempio, sarà necessario mettere in sicurezza tutta la montagna. I sindaci di Resi e Resiut hanno chiesto alla direzione foreste anche la riapertura di una vecchia pista forestale, interventi di pulizia e di sgaggio in quota e un nuovo sistema antincendio sulla montagna costituito da vasche per la raccolta d'acqua. Resia, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo al meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste, 30 gradi, vento da est nord-est, Bora 40 km orari, temperatura del mare 26 gradi e 5 decimi, a Udine, Pordenone e Gorizia 31 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 27 gradi, a Forni di Sopra 24, a Tarvisio 23 gradi, sul Piancavallo 22-21 gradi, a Sappada, sul Monte Zoncolan 19 gradi, sul Monte Lussari 13, sulla costa Lignano e Grado 31 gradi, la temperatura del mare nelle due località è di 28 gradi e mezzo. E queste sono le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Sulla zona montana variabile, su pianura e costa, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulla zona montana nel pomeriggio sera. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte sulla costa e sulle zone orientali. Bora in calo nelle ore centrali della giornata, più sostenuta poi nuovamente in serata a Trieste. La cronaca ora è legata agli ambienti della tifoseria ultra dell'Udinese, quanto successo sabato notte intorno all'1:30 in via Sarpi a Udine, quando un petardo fumogeno esploso tra i clienti di un locale, il Momart, gettando il panico tra gli avventori e ferendo a un dito una ventenne che ha avuto 7 giorni di prognosi. La giovane ha deciso di presentare denuncia. La questura procede ora per i reati di lesioni e lancio di oggetti pericolosi contro il responsabile, un giovane di circa 20 anni, frequentatore della curva del Friuli, che insieme con alcuni amici stava ancora festeggiando a tarda notte la vittoria dei bianconeri sulla Lazio. La questura di Udine emetterà ora anche un cosiddetto DASPO fuori contesto. All'autore del pericoloso gesto verrà inibito l'ingresso allo stadio, anche se la sua condotta pericolosa è avvenuta lontano dal Blue Energy Stadium e molte ore dopo il termine del match, senza dunque una correlazione diretta con l'incontro del Friuli. A Udine è partito a metà della scorsa settimana il piano antidegrado deciso dal comune per la zona della stazione, ma a molti residenti gli interventi radicali sul verde pubblico non piacciono. Non convince una parte dei residenti di Borgo Stazione la prima azione del piano antidegrado del comune di Udine avviato la settimana scorsa. Il taglio delle siepi ha generato qualche malumore e una petizione in rete. Obiettivo dell'amministrazione: far sì che la vegetazione non sia più ricettacolo di rifiuti, oggetti pericolosi o droga. In via Leopardi del resto lo spaccio è alla luce del giorno, basta fermarsi e osservare qualche minuto per accorgersene. Qua non è più via Leopardi, via dello spaccio. Oppure via della droga. Abito qui, ogni tanto mi affaccio a ore diverse, ogni volta che mi affaccio vedo uno scambio di bustino di qualche cosa. E se il motivo era quello di impedire lo spaccio, perché usavano le siepi come nascondiglio, ci sono mille altri modi per impedire ciò. Ho visto dei ratti girare dalla loggia, ecco, forse per quello può avere un significato. Traffici strani non penso che siano rilevanti, che ci siano le siepi o meno. Il prossimo passo del piano comunale sarà il potenziamento della raccolta del vetro e la sostituzione dei cestini. Anche del taglio delle siepi si è parlato nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza su proposta comunale, ma non è stato esplicitamente richiesto dalle forze di polizia, chiarisce il prefetto Domenico Lione. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E parliamo ora di scuola, quando ormai mancano un paio di settimane all'avvio delle lezioni e ancora da completare l'immissione in ruolo degli insegnanti. A 2 settimane dall'avvio del nuovo anno scolastico, la sfida sul fronte docenti e personale ATA sembra più complessa degli anni precedenti, almeno secondo la CISL. Dei poco più di 1000 posti per insegnanti autorizzati dal Ministero, 935 sono quelli necessari indicati dall'Ufficio Scolastico Regionale. Ad oggi le nomine sono 503, poco più del 50%. Il maggior numero di stabilizzazioni lo ha avuto la scuola primaria, per 200 maestre e maestri, è il momento dell'atteso contratto a tempo indeterminato. Ma, denuncia Antonella Piccolo, CISL Scuola, mancheranno comunque insegnanti di ruolo e supplenti, i più delusi gli idonei del concorso ordinario 2022, ancora in attesa di nomina. Con loro, i docenti che hanno superato il concorso PNRR. In questo caso, non essendo prevista la pubblicazione delle graduatorie, oltre ai vincitori, non si conosce la propria posizione e quindi la possibilità di essere o meno chiamati. E c'è delusione anche tra il personale ATA. L'autorizzazione ad assumere è prevista nella misura corrispondente al turnover e riguarda soltanto il 30% dei posti vacanti e disponibili, ovvero 217 immissioni in ruolo a fronte di 631 posti vacanti. Per assicurare la partenza corretta dell'anno scolastico nelle prossime ore, l'algoritmo assegnerà i contratti ai docenti specializzati nel sostegno presenti in prima fascia nelle graduatorie. C'è anche il problema della mancanza di dirigenti scolastici. Per 17 istituzioni scolastiche, dopo la decisione del TAR del Lazio di sospendere la procedura di immissione in ruolo dei docenti che hanno partecipato al concorso, 17 istituti regionali avranno una reggenza. Attesa, infine, da parte dei supplenti docenti e di quelli ATA per la chiamata per un contratto a tempo determinato. Mercoledì 28 agosto i 45 aspiranti di SGA sono stati infine convocati all'ufficio scolastico regionale, 31 i posti disponibili a fronte dei 63 vacanti. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Incentivare l'uso dei mezzi pubblici tra gli studenti abbassando i costi per le famiglie, continuano ad aumentare i numeri degli abbonamenti scontati. Si pagheranno la metà gli abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia con meno di 27 anni di età. Per il sesto anno la Giunta regionale infatti ha confermato l'agevolazione del 50% di sconto con un finanziamento di 10 milioni di euro. L'obiettivo è quello di incentivare l'uso del trasporto pubblico e abbassare i costi per le famiglie. L'abbonamento può essere acquistato per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbani, urbani e misti svolti dal servizio di trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia e per quelli di trasporto ferroviario regionale. L'abbonamento scolastico agevolato è acquistabile fino al 31 ottobre, da quest'anno anche con lo SPID, come ricorda Michele Scozzai, responsabile comunicazione TPL. Per beneficiare dell'agevolazione è necessario autocertificare i requisiti di accesso, che sono la residenza anagrafica dello studente, l'età dello studente, che deve essere inferiore ai 27 anni. Da quest'anno lo si può fare anche tramite SPID. Con SPID sono sufficienti pochi minuti, è sufficiente indicare la scuola di appartenenza a cui lo studente è iscritto, la scuola o l'università, e la domanda viene immediatamente confermata in tempo reale e l'acquisto può essere fatto pochi secondi dopo. Lo scorso anno sono stati venduti 48.462 abbonamenti, 16.000 in più rispetto a 4 anni prima. Quest'anno, alla scorsa settimana, abbiamo avuto più di 15.000 domande confermate, che sono il 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segno che la misura è effettivamente molto apprezzata dalle famiglie. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Ceccarelli Group, già presente a Pradamano, Tolmezzo e Budoia, apre un insediamento anche all'Interporto Cervignano, uno spazio di 8.400 metri su 7 moduli da cui partiranno spedizioni per tutto il territorio nazionale ed europeo. Saranno impiegati 4 nuovi addetti di magazzino, dipendenti diretti del gruppo, per un'operatività di 7 giorni su 7 e un consolidamento giornaliero di 15 mezzi della flotta del gruppo per attività di navettaggio e partenze. Oltre alle spedizioni delle Interporto di Cervignano saranno gestite anche le soluzioni di logistica con l'utilizzo di software sviluppati dall'azienda stessa e con l'esternalizzazione delle risorse presenti. Attualmente, spiega Luca Ceccarelli, presidente del gruppo, la locazione è monocommittente e abbiamo l'interesse a mantenere e ampliare l'insediamento. Abbiamo già intensificato rapporti e contatti con nuove opportunità di logistica integrata. E dal 16 al 21 settembre all'Università di Udine si terrà la 10ª edizione della Scuola di Introduzione alle Energie Rinnovabili, SIER, arrivata alla sua 10ª edizione. Un corso rivolto a diplomati, laureati tecnici e operatori del settore che illustrerà gli aspetti delle fonti di energia rinnovabile e il loro sviluppo per rispondere ai problemi climatici ed energetici. Ci si può iscrivere fino al 28 agosto. Tra i temi trattati la decarbonizzazione, la crescita demografica nel mondo, l'economia circolare e, in un giorno in più rispetto alle passate edizioni, anche il nucleare, con una tavola rotonda che ne illustra le opportunità ma anche i problemi. Abbiamo sentito la direttrice della scuola, Marina Kobal, e le abbiamo chiesto quanto si è cambiato e quanto sia andato avanti il mondo delle rinnovabili in questi 10 anni. Purtroppo non tantissimo, c'è sicuramente più sensibilità su questo tema, c'è qualche piccola innovazione tecnica, c'è molto più interesse, ci sono tanti più investimenti, però non mi pare che ci siano stati degli step veramente impressionanti su questa strada. Si deve fare molto di più, impegnare più risorse e probabilmente, come diciamo noi fisici, fare più fisica, cioè veramente arrivare a qualche nuovo paradigma che ci aiuti a superare questo momento. Quali sono i fronti più importanti secondo lei dal punto di vista scientifico su cui dobbiamo aspettarci un'innovazione? Dovremmo aspettarcela un pochino da tutti i fronti che includono e coinvolgono le energie rinnovabili, quindi dal punto di vista del solare, per esempio, i metodi che si sono utilizzati fino adesso sono metodi che risalgono a decine e decine di anni fa, non è stato fatto veramente niente di drasticamente nuovo. Si parla sempre di fotovoltaico, che è una delle strade, ma non è l'unica strada. Deve essere fatto molto di più sul versante anche della produzione dell'energia termica, i trasporti, anche lo studio di batterie nuove che consentano la conservazione dell'energia e il suo riutilizzo nei momenti in cui magari non c'è il sole, che è un po' la limitazione che c'è per il fotovoltaico. Si è parlato tantissimo anche di idrogeno, che sembrava una strada super promettente, adesso cominciamo a renderci conto che ci sono anche dei problemi che non sono facilmente superabili, per quanto si stanno impegnando finanziamenti e studi per cercare di fare meglio e fare più in fretta, soprattutto perché non è che abbiamo tantissimo tempo. Quindi ci si sta muovendo su vari fronti, che è la cosa che va fatta, insomma. Il Comitato Pace, Convivenza, Solidarietà Danilo Dolci ha ricordato stamani il 111° anniversario della nascita dello scrittore triestino di lingua slovena Boris Pahor. Quest'anno si ricordano anche gli 80 anni dall'arresto di Pahor da parte dei nazifascisti. Il Comitato, con Luciano Ferluga, ha sottolineato che Boris Pahor è stato uomo di pace, impregnando con essa le sue opere ed indicando quanto sia indispensabile impegnarsi per costruire condizioni di pace, convivenza, solidarietà e fratellanza tra le persone e i popoli. Mancano pochissimi giorni all'inizio delle Paralimpiadi, che prenderanno il via a Parigi dopodomani, mercoledì. Dalla Friuli Venezia Giulia, oltre ai 7 atleti che fanno parte della pattuglia azzurra, ci sarà anche Emiliana Bizzarini, primario della unità spinale dell'Istituto di Riabilitazione Gervasutta di Udine. A Parigi sarà responsabile medico della delegazione paralimpica italiana. L'abbiamo intervistata. Sicuramente è un lavoro impegnativo, ovviamente anche molto emozionante. Qui alle Paralimpiadi abbiamo ovviamente organizzato la parte dell'ambulatorio medico per qualsiasi necessità degli atleti. Ricordo che alle Paralimpiadi abbiamo un'incidenza un pochino più elevata rispetto ai colleghi delle Olimpiadi per quanto riguarda gli infortuni. Ci aspettiamo circa 14 infortuni per una delegazione di 100 atleti per 10 giorni, noi abbiamo 141 atleti e abbiamo anche un'incidenza leggermente più elevata di patologie quali gastroenteriti, sindromi da raffreddamento, infezioni urinarie. Quindi abbiamo organizzato un po' l'ambulatorio medico, siamo già pronti, stiamo attendendo gli ultimi atleti e ovviamente tutta la parte di fisioterapia, quindi con me fanno parte del team paralimpico altri 5 medici, 3 fisioterapisti e un infermiere. Con i fisioterapisti appunto organizziamo la parte di scarico e di recupero per gli atleti che necessitano di queste terapie. C'è qualche affinità tra questa attività che lei svolge nell'ambito dello sport paralimpico e la sua attività professionale nell'ambito dell'ospedale riabilitativo Gervasutta? Sì, certo. Io sono il direttore dell'unità spinale, quindi mi occupo da circa 25 anni delle persone con lesioni al midollo spinale. E sicuramente questa attività di riabilitazione che svolgo a Udine presso l'ospedale Gervasutta ha, a mio parere, come obiettivo ultimo sicuramente la ripresa delle attività della vita quotidiana, il reinserimento in famiglia, la partecipazione sociale, ma come obiettivo più importante è sicuramente l'inserimento in una società sportiva. E quindi la ripresa di un'attività sportiva costituisce sicuramente l'obiettivo riabilitativo più importante. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcune notizie che riguardano delle limitazioni alla viabilità previste per domani in A23 Udine e Tarvisio per consentire lavori di pavimentazione. Dalle 22 di domani, martedì 27, alle 2 di mercoledì 28 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Malborghetto, Valbruna e Pontebba in direzione sud Udine. In alternativa, chi proviene da Tarvisio verrà deviato obbligatoriamente in prossimità della barriera di Ugovizza per poi uscire a Malborghetto e proseguire sulla statale 13 Pontebbana verso Udine con rientro in A23 a Pontebba. E sempre domani in A4 è vietato l'accesso alla rampa di collegamento tra la carreggiata dell'A4 tra Trieste e Venezia e la carreggiata della A28 da Portogruaro Conegliano nel nodo di Portogruaro. In particolare tra le 22 di martedì 27 e l'una di mercoledì 28 chi proviene da Trieste sulla 4 ed è diretto a Portogruaro dovrà uscire allo svincolo di Latisana utilizzando gli itinerari alternativi della viabilità ordinaria segnati dalle frecce gialle, potrà rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro. È tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con l'informazione, il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo. L'informazione radiofonica torna su queste frequenze alle 15, gli aggiornamenti delle notizie sul nostro sito internet rainews.it/TGR/FVG e sui canali social. Alla parte tecnica Samuel Montalto e Andrea Fontanot. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.